ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte, traduzione di Margherita Giacobino. Una lettera, listata di nero, annunciò il giorno in cui il mio padrone sarebbe tornato. Isabella era morta. Lui scriveva per ordinarmi di vestire a lutto sua figlia e di preparare una stanza e quant'altro occorresse per il nipotino. Catherine impazzì di gioia all'idea di riavere suo padre con sé e si abbandonò a fantasticherie piene di ottimismo sugli innumerevoli pregi del suo vero cugino. La carrozza apparve da lontano. Non appena scorse il viso di suo padre che guardava dal finestrino, la signorina Cathy si mise a gridare e tese le braccia. Lui scese ansioso quasi quanto lei e per un bel po' di tempo la loro attenzione fu interamente riservata a se stessi. Mentre si scambiavano abbracci, io diedi un'occhiata dentro la carrozza per vedere Linton. Era addormentato in un angolo, avvolto in un caldo mantello foderato di pelliccia, come se fosse stato inverno. Un ragazzo pallido, delicato, effeminato, che si sarebbe potuto scambiare per il fratello minore del mio padrone, tanta era la somiglianza. Ma nel suo aspetto c'era un'irritabilità malaticcia che Edgar Linton non aveva mai avuto. Quest'ultimo vide che lo guardavo e, dopo avermi stretto la mano, mi consigliò di chiudere lo sportello e di non disturbarlo perché il viaggio lo aveva stancato. Cathy non vedeva l'ora di dare un'occhiata, ma suo padre la richiamò e insieme andarono a piedi attraverso il parco, mentre io mi affrettavo a precederli per dare disposizione ai domestici. «Dunque, cara», disse il signor Linton rivolto a sua figlia, mentre si fermavano davanti ai gradini dell'ingresso principale, «tuo cugino non è forte né vivace come te e ricorda che ha appena perso sua madre. Perciò non aspettarti che lui si metta subito a giocare e a correre con te e non tormentarlo troppo con le chiacchiere. Lascialo tranquillo, almeno per stasera, d'accordo?» «Sì, sì, papà», rispose Catherine, «ma voglio vederlo. Non si è affacciato neanche una volta». La carrozza si fermò. Il dormiente venne svegliato e messo in piedi da suo zio. «Questa è tua cugina Cathy, Linton», disse unendo le loro manine. «Ti vuole già molto bene, perciò non addolorarla mettendoti a piangere. Cerca di essere contento. Adesso il viaggio è finito e non hai altro da fare che riposarti e divertirti come ti piace». «Allora lasciatemi andare a letto», rispose il ragazzo, ritraendosi dal contatto con Catherine, e alzò le mani agli occhi in attesa delle lacrime imminenti. «Su, su, da bravo bambino», sussurrai, portandolo dentro. «Farai piangere anche lei. Guarda come le dispiace». Non so se le spiacesse davvero per lui, ma la cugina mise su una faccia triste come la sua e tornò dal padre. Entrarono tutti e tre e salirono in biblioteca, dove era stato apparecchiato per il tè. Io tolsi a Linton il cappello e il mantello e lo sistemai su una sedia davanti al tavolo, ma non appena fu seduto ricominciò a piangere. Il mio padrone gli chiese che cosa avesse. «Non posso stare seduto su una sedia», singhiozzò il bambino. «Vai sul divano, allora, ed Ellen ti porterà il tè», rispose pazientemente suo zio. Quel ragazzino deboluccio e nervoso lo aveva messo a dura prova durante il viaggio, ne ero certa. Linton si trascinò lentamente verso il divano e si sdraiò. Cathy andò a mettersi vicino a lui, con uno sgabello e la sua tazza. Dapprima rimase in silenzio, ma così non poteva durare. Il cuginetto doveva diventare il suo beniamino, proprio come lei voleva che fosse, e perciò cominciò ad accarezzarlo sui capelli e a baciarlo sulle guance e a offrirgli il tè dal suo piattino, come a un bambino piccolo. Questo gli fece piacere, perché non era molto più cresciuto di un bambino piccolo, e si illuminò di un vago sorriso. «Oh, starà benissimo», mi disse il padrone dopo averli osservati per un po'. «Benissimo, se non lo perdiamo». Ellen, la compagnia di una bambina della sua età, presto gli darà nuovi stimoli, e vorrà essere forte e sano e lo diventerà. Sì, se non lo perdiamo, meditai fra me, e fui assalita dall'angoscioso presentimento che ci fossero poche speranze in merito. E comunque pensai, come potrebbe mai restare in vita questo malatino a Cime Tempestose, con suo padre e Ayrton, e che razza di compagni di gioco e maestri sarebbero per lui. I nostri dubbi furono risolti subito, prima ancora di quanto mi aspettassi. Avevo appena portato i bambini di sopra dopo il tè ed ero rimasta accanto a Linton finché si era addormentato. Non mi aveva lasciato andare prima, poi ero scesa e mi trovavo accanto al tavolo dell'ingresso, intenta ad accendere la candela che serviva al signor Edgar per salire in camera sua, quando dalla cucina arrivò una cameriera a informarmi che Joseph, il domestico del signor Heathcliff, era alla porta e voleva parlare con il padrone. «Buonasera, Joseph», dissi freddamente. «Cosa sei venuto a fare qui?» «È al padron Linton che voglio parlare», rispose facendomi segno sdegnosamente di spostarmi. «Il signor Linton sta andando a dormire. Faresti meglio a sederti qui e io riferirò il tuo messaggio». «Qual è la sua stanza?» continuò lui esaminando la fila di porte chiuse. Capii che non avrebbe accettato la mia mediazione, così con estrema riluttanza salì in biblioteca ad annunciare quell'inopportuno visitatore, offrendo al contempo il consiglio di rimandarlo all'indomani. Ma il signor Linton non ebbe il tempo di autorizzarmi a farlo, perché Joseph, salito dietro di me e infilatosi nella stanza, si piantò in fondo al tavolo con i pugni stretti sul pomo del suo bastone e cominciò in tono polemico, come se si aspettasse di essere contraddetto. «Heathcliff mi ha mandato a prendere il ragazzo e non devo tornare indietro senza di lui». Edgar Linton rimase per un attimo in silenzio. Un'espressione di intensa sofferenza apparve sul suo volto. Avrebbe avuto compassione del ragazzo in ogni caso, ma ricordando le speranze e i timori di Isabella, ciò che lei ansiosamente voleva per suo figlio e come l'aveva affidato alle sue cure, l'idea di consegnarlo ad altri gli procurava una pena acuta e stava cercando in cuor suo il modo di evitarlo. Ma non gli si presentò nessuna soluzione. Se soltanto avesse manifestato il suo desiderio di tenerlo con sé, il pretendente lo avrebbe reclamato in modo ancora più perentorio. Non c'era nulla da fare se non darlo per perso. Tuttavia, non l'avrebbe svegliato ora, mentre dormiva. «Dica al signor Heathcliff», rispose con calma, «che suo figlio andrà a Cime Tempestose domani. Ora è a letto ed è troppo stanco per rimettersi in strada. Gli dica anche che la madre di Linton ha espresso il desiderio che rimanesse sotto la mia tutela e che al momento la sua salute è molto precaria». «No», disse Joseph, battendo il bastone sul pavimento e assumendo un'aria autoritaria. «No, questo non vuol dire niente. A Heathcliff non gliene importa della madre e nemmeno di lei. Lui vuole il ragazzo e io devo portarglielo. Mi sono spiegato?» «Non stasera», rispose Linton in tono che non ammetteva repliche. «Se ne vada immediatamente e riferisca al suo padrone ciò che ho detto. Ellen, mostragli la strada. Vada». E prendendo il vecchio indignato per il braccio, lo portò fuori dalla stanza e chiuse la porta. «Molto bene», urlò Joseph andandosene lentamente. «Domani verrà lui di persona e provate a buttar fuori lui se ne avete il coraggio». Per evitare che questa minaccia venisse messa in atto, il signor Linton mi incaricò di portare a casa il ragazzo la mattina presto, sul pony di Catherine, e disse: Dal momento che ora non avremo più alcuna influenza sul suo destino, bello o brutto che sia, non devi far sapere a mia figlia dove è andato. Da oggi in poi lei non potrà frequentarlo ed è meglio che non sappia che vive così vicino, o sarebbe irrequieta e ansiosa di andare a Cime Tempestose. Dille soltanto che suo padre l'ha mandato a prendere all'improvviso e che è stato obbligato a lasciarci. «Salve, Nelly!» esclamò Heathcliff quando mi vide. «Temevo di dover venire giù a prendermi io stesso ciò che mi appartiene. Me l'hai portato, vero? Vediamo un po' che cosa possiamo farne». Si alzò e si diresse verso la porta. Ayrton e Joseph lo seguirono a bocca aperta per la curiosità. Il povero Linton passò in rassegna spaventato le facce di quei tre. «Sono sicuro», disse Joseph dopo un serio esame, «che gliel'ha scambiato padrone e che questa è sua figlia». Heathcliff, dopo aver fissato suo figlio fino a paralizzarlo per l'imbarazzo, proruppe in una risata di scherno. «Dio, che bellezza! Che cosina leggiadra, affascinante!» esclamò. «L'hanno allevata a lumache e latte acido, Nelly? Che sia dannato! Ma questo è peggio di quello che mi aspettavo, e lo sa il diavolo che non ero ottimista». Linton non capì esattamente il significato delle parole di suo padre, né se fossero riferite a lui. Anzi, non era neppure certo che quell'estraneo torvo e beffardo fosse suo padre. Ma si aggrappò a me con crescente trepidazione e quando il signor Heathcliff si sedette e gli ordinò «Vieni qui», nascose il viso nella mia spalla e scoppiò a piangere. «Eh no», disse Heathcliff, allungando una mano per tirarlo rudemente fra le sue ginocchia e quindi prendendolo per il mento. «Non voglio lagne. Non ti faremo del male, Linton. È così che ti chiami, vero? Sei proprio il figlio di tua madre. Che cosa c'è di mio in te, pulcino frignante?» Tolse il cappello al ragazzo e spinse indietro i suoi folti capelli biondi. Tastò le sue braccine magre e le sue piccole dita. Nel corso di questo esame Linton smise di piangere e alzò i suoi occhioni azzurri per osservare l'esaminatore. «Sai chi sono?» chiese Heathcliff, dopo essersi accertato che le membra del ragazzo erano tutte ugualmente gracili e delicate. «No», disse Linton con uno sguardo vacuo e spaventato. «Hai sentito parlare di me? Voglio sperare». «No». «No? Che vergogna! Tua madre non ha destato in te alcun riguardo filiale verso di me?» «E allora te lo dico io. Tu sei mio figlio. E tua madre è stata una malefica sgualdrina a lasciarti nell'ignoranza su che genere di padre hai. Su, non è il caso di trasalire, di arrossire, anche se ammetto che non mi dispiace vedere che il tuo sangue non è bianco. Sii un bravo ragazzo e vedrai che andremo d'accordo. Nelly, se sei stanca puoi metterti a sedere, se no tornatene a casa. Scommetto che riferirai quello che vedi e che senti a quella nullità giù alla Grange e questa creatura non si metterà il cuore in pace finché gli stai attorno». «Bene», replicai. «Spero che tratti bene il ragazzo, signor Heathcliff, o non lo terrà con sé a lungo. È tutto ciò che ha nel vasto mondo, tutta la sua famiglia, ora e sempre. Se lo ricordi». «Lo tratterò molto bene, non avere paura», rispose lui, ridendo. «Ma nessuno all'infuori di me deve trattarlo bene. Sono geloso e voglio monopolizzare il suo affetto. E per cominciare con la gentilezza, Joseph, porta tu la colazione al ragazzo. Ayrton, maledetto stupido, vattene a lavorare. Sì, Nell», aggiunse dopo che se ne furono andati, «mio figlio è il futuro proprietario della casa dove vivi e io non vorrei proprio che morisse senza avere la certezza di essere il suo successore. A parte ciò, è mio e voglio avere la soddisfazione di vedere il mio rampollo signore a pieno titolo delle loro terre. Mio figlio che ha alle sue dipendenze i loro figli che coltivano la terra dei loro padri come semplici salariati. Questa è l'unica considerazione che può indurmi a tollerare quel marmocchio. Lo disprezzo per se stesso e lo odio per i ricordi che fa rivivere. Ma è una considerazione sufficiente. Con me è al sicuro e sarà trattato con la stessa cura che il tuo padrone prodiga a sua figlia. Di sopra c'è una stanza, arredata con tutti i lussi di cui ha bisogno. E mi sono anche procurato un precettore che verrà 3 volte la settimana da 20 miglia di distanza per insegnargli quello che avrà voglia di imparare. Ho ordinato a Ayrton di obbedirgli. Insomma, ho sistemato tutto perché continui a sentirsi un gentiluomo, superiore di rango a quelli che lo circondano. Mi dispiace però che si meriti così poco il fastidio che mi prendo per lui. Se c'era una gioia al mondo che avrei voluto, era quella di scoprire di poter essere orgoglioso di lui. Ma che amara delusione questo piccolo disgraziato smorto e lamentoso. Mentre parlava, Joseph tornò con una scodella di porridge al latte. La mise davanti a Linton, che rimestò quel cibo rustico guardandolo con disgusto e affermò che non poteva mangiarlo. Vidi che il vecchio domestico concordava ampiamente con il suo padrone nel disprezzare il ragazzo, anche se era costretto a tenere per sé i suoi sentimenti, visto che Heathcliff aveva fatto capire chiaro e tondo ai suoi subordinati che avevano il dovere di trattarlo con i guanti. «Non potete mangiarlo?» fece eco, guardando il viso di Linton e abbassando la voce in un sussurro per paura di farsi sentire. Ma il padroncino Ayrton non mangiava nient'altro quando era piccolo, e se andava bene per lui, va bene anche per voi, ci mancherebbe. «Non lo mangio», rispose Linton bruscamente. «Portalo via!» Joseph afferrò la scodella tutto indignato e la portò da noi. «C'è qualcosa che non va in questo mangiare?» domandò, ficcando il vassoio sotto il naso di Heathcliff. «Che cosa dovrebbe esserci che non va?» disse lui. «Ma», rispose Joseph, «il vostro damerino dice che non può toccarlo». «Ma sì, è vero, ha ragione. Sua madre era proprio uguale. Noi non eravamo neanche degni di seminare il grano per fare il pane che lei mangiava». «Non nominare sua madre davanti a me», disse il suo padrone arrabbiato. «Dagli qualcosa che possa mangiare e falla finita». «Che cosa mangia di solito, Nelly?» Suggerì del latte bollito e del tè. Alla fine, riflettei, l'egoismo di suo padre può contribuire a dargli una vita confortevole. Si rende conto che è di costituzione debole e che ha bisogno di un trattamento civile. Rassicurerò il signor Edgar, mettendolo al corrente della piega che ha preso l'umore di Heathcliff. Non avevo più scuse per trattenermi, perciò scivolai fuori, mentre Linton era impegnato a respingere cautamente le profferte amichevoli di un cane da pastore. Ma era troppo allerta per lasciarsi imbrogliare. Non appena chiusi la porta, sentii un grido e la frenetica ripetizione di queste parole: «Non lasciarmi! Non voglio stare qui! Non voglio stare qui!» Poi sentii tirare il catenaccio. Non gli permisero di uscire. Montai Minnie e la spronai al trotto. E così finì il mio breve periodo di tutela.